nascosta in un guscio isolato, forzato da paure radicate da ignoranti. Combatti il tuo timore con una goccia di liquore, convinto che ti basti per liberare il cuore. Vivi forte, non aver timore, non arrenderti alla banalità. E mezza sprigionata in una scheggia di bicchiere, che ti fa le forze e grinta, osservato con piacere dai più stupidi. Più forte in un ballo sterile, più forte in un approccio flaccido, energia sprigionata da bottiglie legalizzate. Sto con il fine in fondo, con il te.